Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Buonasera da Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Piacerebbe dire che ve ne sono di nuovi, purtroppo no, nel senso che la giornata è particolarmente brutta per le borse. -3,5% il calo degli listini in tutta Europa, con l'America che sta dando una mano, si fa per dire, con un -3,20% sul Dow Jones e un -3,45% sul Nasdaq. Ovviamente non fa eccezione Milano, perde il 3% il Mibtel, il 3,6% l'S&P MIB. Un martedì da dimenticare. E allora vediamo i titoli positivi: A2A più 2%, Snam Rete Gas più 1%, Enel guadagna lo 0,40. Fine. Tutto il resto è negativo nell'S&P MIB, ma soprattutto perdono in maniera molto pesante Alleanza, -7,7%, e Intesa San Paolo -7,5%. Molto male anche Fiat, -6,90%, Unicredito -6,7%, Tenaris -6,6%, UbiBanca -6,5%, Unipol -5,6%, come Pirelli, il 5% lo perde Mondadori, il 4,80% Autogrill, il 4,5% lo perde Prismian, Buzzi Unicem, Luxottica e le Generali. Infine, per restare su chi perde più del 4%, questo già vi dà il tono della giornata, l'Espresso -4,3% come la Popolare di Milano, Seat -4,1% come Bulgari, Finmeccanica perde il 4% come Geox. Che alcuni casi singoli, Finmeccanica per esempio è arrivata a perdere quasi il 10% sulle voci di un possibile blocco della commessa per fornire gli elicotteri alla Casa Bianca. Secondo Finmeccanica invece non si è a questo livello, ma insomma il mercato è arrivato a penalizzare moltissimo il titolo. Per quello che riguarda le banche invece ne parleremo nella seconda ora del programma. La giornata è particolarmente pesante e questa volta, come avete sentito, non solo per Unicredito ma anche per Intesa San Paolo. Non che Unicredito se la passi meglio, ormai è sceso il titolo Unicredito a un livello di 1 euro, sto ragionando al dato, 1,2 euro per azione, ultimo prezzo a praticamente 1,12 sempre su Unicredito. Intesa è scesa a 2,1 euro per azione, Alleanza a 5 euro, Fiat in questo momento sta a 4 euro secchi per azione. Brutta la giornata di borsa. In apertura parleremo invece del piano auto, perché siamo in attesa di che arrivi dall'America. Dovrebbe a questo punto arrivare in serata il piano, la task force, scusatemi, con i dettagli per il piano di salvataggio delle industrie americane dell'auto. A New York l'indice Dow Jones, ma soprattutto lo Standard & Poor's, è arrivato per la prima volta sotto i minimi, praticamente dallo scorso novembre è sceso sotto i 500 punti, è arrivato a perdere oltre il 4%, adesso perde il 3,80%, insomma un'altra giornata di passione. Che cosa dobbiamo dire? Che nel frattempo l'allarme lanciato anche dal mondo della meccanica, oggi infatti se ne è parlato a Federmeccanica e in generale anche dal vicepresidente di Confindustria Bombassei sulla crisi che si sta allargando, a detta di Bombassei, che è anche il fondatore e proprietario della Brembo, quindi nel doppio ruolo di vicepresidente di Confindustria ed industriale. Egli stesso, Bombassei, ha detto: la crisi si sta allargando a macchia d'olio, dal settore automobilistico a quello della meccanica fino al tessile. Ancora parleremo poi della vicenda fondiaria SAI, l'operazione con Simon Francais, oggi conferenza stampa, ma insomma il titolo perde 3,4, scusatemi, non fondiaria SAI ma Italcementi, il titolo oggi non è così negativo come altri, certo perde il 2,90% Italcementi, ma ripeto va meglio, se vogliamo metterla così, della media dell'indice, visto che l'S&P MIB perde il 3 0,5%. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora le notizie in breve, parleremo piano auto, delle banche italiane, di Italcementi in questa puntata di Focus Economia. La buona notizia è il petrolio, ancora una volta scende a 35,3 dollari al barile, in calo del 6%. Tra l'altro proprio il fatto che il petrolio sia sceso oggi in alcuni momenti anche sotto i 35 dollari, poco fa era arrivato a 34,75, è secondo molti operatori il segnale e la conseguenza delle aspettative di tutti i mercati per un peggioramento della recessione globale e quindi attese di consumi energetici in ulteriore calo. E sempre in tema di energia, i due colossi russi Rosneft e Transneft hanno ottenuto 25 miliardi di dollari di prestito dalla banca cinese, con per la precisione la Cina ha siglato oggi un accordo, insomma 25 miliardi di dollari per ottenere in cambio forniture petrolifere. Questo è l'accordo raggiunto tra Mosca e Pechino. Mentre sui mercati si segnala un ulteriore calo dell'Euribor, che scende all'1,91% come tasso interbancario di riferimento a tre mesi. Del Giappone sapete già tutto, devo dire che questa mattina il Giappone non ha chiuso nemmeno così male, visto poi la giornata in Europa e in America, ha perso l'1,35% nel giorno in cui il ministro, un po' dal gomito facile, inteso come gomito alzato, Nakagawa si è dimesso con effetto immediato, era finita una bufera al G7 di Roma perché ubriaco nel corso della conferenza stampa, e il primo ministro giapponese Taro Aso ha scelto Kaoru Yoshino, attualmente ministro delle politiche economiche e fiscali, come nuovo ministro delle finanze. Scende l'inflazione, che assieme al petrolio, ripeto, è l'altra buona notizia di questa settimana, di questi mesi. Siamo d'accordo che sia inflazione che petrolio scendano per le prospettive negative sull'economia, ma almeno scendono. Avete ragione, vedo già alcuni messaggi. Il prezzo dei carburanti non sta scendendo e mi riprometto di fare una puntata a brevissimo sul perché, non spero di ottenere grandi risposte, ma ci proviamo anche stavolta, sul perché il prezzo della pompa resti alto rispetto al livello del prezzo del barile sui mercati internazionali. Ma dicevo, l'inflazione in Gran Bretagna è scesa al 3%, il minimo da 9 mesi a questa parte. Una notizia migliore delle attese è arrivata invece dalla Germania, dove l'indice che misura la fiducia degli investitori istituzionali è salito a sorpresa ed è salito molto più di ogni attesa. Un'altra buona notizia è rappresentata da una catena di fast food che molti di voi conoscono, la Kentucky Fried Chicken, quella che vende i polli fritti, è il McDonald's del pollo. Perché? Perché non solo McDonald's ha annunciato a livello europeo 9.000 assunzioni, ma anche Kentucky Fried Chicken ha annunciato la creazione di 9.000 posti di lavoro nel solo Regno Unito nei prossimi 3-5 anni. E questo perché, lo dice espressamente la Kentucky Fried Chicken, proprio per via della crisi i consumatori stanno aumentando e tutti coloro i quali operano in un settore, chiamiamolo così, low cost, fast food per eccellenza low cost, vedono aumentare gli introiti. Nel frattempo però, se la Kentucky Fried Chicken assumerà 9.000 persone in Gran Bretagna, la Unione Europea stima che quest'anno ci siano in Europa 3 milioni e mezzo di posti di lavoro a rischio, e la stima di una contrazione dell'occupazione per quest'anno dell'1,6%, tra i settori più colpiti l'auto, le banche, la meccanica e i trasporti. E tra l'altro, tra ottobre 2008 e gennaio 2009 sono stati persi in Europa 100.000 posti di lavoro. Ancora, la presidenza europea ha bocciato l'ipotesi dei cosiddetti eurobond, l'ha detto il premier ceco Mirek Topolánek, presidente di turno, ha detto che in sostanza l'eurobond non è una strada che consiglierebbe di intraprendere. L'Eurobond è quell'ipotesi di emettere a livello europeo dei titoli di Stato, quindi appunto euro obbligazioni, per finanziare poi progetti infrastrutturali e altri progetti anticrisi, quindi anticiclici. E ancora, se da un lato Silvio Berlusconi poco fa in conferenza stampa con la speaker della Camera americana Nancy Pelosi ha detto occorre non cadere nella trappola del protezionismo, questa mattina lo stesso concetto l'aveva espresso anche il presidente della Commissione europea Barroso. Però attenzione, perché sempre dall'Europa è arrivato un altro allarme, come se avessimo bisogno di altri allarmi, perché il commissario europeo alla concorrenza Neel Kroes ha ricordato come le banche europee, nonostante abbiano cominciato ad affrontare i loro problemi, vedono ancora crescere l'esposizione verso i prodotti tossici o deteriorati, e i numeri, lo dice la Kroes, sarebbero sbalorditivi. E ricordo l'appello e l'invito arrivato anche da Mario Draghi nella sua veste di presidente del Financial Forum Stability e della Banca d'Italia, quando ha chiesto dopo il G7 che le banche tirino fuori tutti gli asset e i prodotti e gli investimenti tossici, anche se non li hanno ancora messi a bilancio perché presenti in società da loro controllate. Unicredito e Intesa sono stati oggi oggetto dell'outlook dell'agenzia di rating Moody's, che ha detto il rapido deterioramento del quadro macroeconomico nell'Europa dell'Est potrebbe mettere sotto pressione i rating di diverse banche dell'area, così come di quelle di alcune banche dell'Europa occidentale più esposte. E tra l'altro proprio Moody's ha notato come l'esposizione del sistema bancario verso quell'area è molto alta per la presenza di Unicredito e Intesa. E se nel frattempo in Francia sono crollate le vendite di yacht di lusso, il leader mondiale Rodriguez ha subito un crollo, e questo dice lungo su quanto la crisi abbia colpito anche i miliardari e i ricchi. Non è solo Abramovic aver visto sparire 9 miliardi di euro, da 19 si dovrà accontentare di 10 miliardi come patrimonio. La Rodriguez ha visto dimezzate le vendite da ottobre a dicembre rispetto all'anno precedente, da 84 milioni a 41 milioni. C'è un paese in cui le banche stanno guadagnando più che nell'anno precedente. Gli utili del 2008 delle banche argentine, infatti, sono cresciuti del 37% in più rispetto al 2007. E vabbè, almeno le banche argentine vanno meglio. Sarebbe interessante capire cosa succede ai nostri risparmiatori che comprarono a suo tempo le obbligazioni argentine, che poi sono rimasti nel guado con la trattativa messa in campo dalla Task Force Argentina dell'AVI. Comunque, quello è un altro tema. Il primo tema d'apertura è l'allarme lanciato oggi dal vicepresidente di Confindustria Bombassei sull'andamento complessivamente dell'economia e anche del settore auto. Poi sentiremo Federmeccanica e poi parleremo del piano per salvare l'industria automobilistica americana delle ipotesi di fusione in Europa. 349-238-6666. E allora partiamo di nuovo con il diario di questa crisi. La crisi economica si sta allargando a macchia d'olio dal settore automobilistico a quello della meccanica fino al tessile, così Alberto Bombassei a margine di un'audizione in commissione lavoro della Camera del vicepresidente di Confindustria, il quale al termine dell'audizione ne ha parlato con il nostro Vincenzo Miglietta. Francamente credo che la situazione sia quella che conosciamo tutti e quindi debbano essere prese delle misure eccezionali. Credo che la ricerca di quello che sta facendo il governo, sia a livello di credito, sia a livello di aiuti ai settori più colpiti, vada nella direzione giusta. Adesso si tratta soltanto di vedere con quale entità possiamo affrontarlo. Questo è il primo commento. La seconda cosa, credo che nel confronto che è stato fatto nel G7 dell'ultimo weekend e il confronto fra paesi europei sia un altro dei passi obbligatori, perché dovremmo prendere delle misure il più possibile simili fra un paese e l'altro, per non creare delle asimmetrie e quindi per non alimentare quelli che sono gli interessi nazionali, e quindi vuol dire fare del protezionismo, che è la strada opposta a quello che, di cui abbiamo bisogno. E quindi io spero che questi elementi più tutte le misure prese riescano a invertire un po' la tendenza. Quindi mi auguro che la gente possa riprendere un po' più di fiducia e quindi ricominci a consumare, se non come prima, ma quantomeno attenui questo effetto negativo. Nel frattempo il segretario della CISL Raffaele Bonanni si è detto a favore dell'appello del presidente della Fiat Montezemolo di convocare degli stati generali dell'economia per affrontare la crisi. Sempre Montezemolo poco fa ha elogiato l'operazione del governo per gli incentivi sull'auto, soprattutto quelle ecologiche. Ha detto Montezemolo: il mercato già inizia a muoversi. Da Federmeccanica nel frattempo è arrivata l'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica. Praticamente sono 103 i gruppi o le aziende metalmeccaniche che aderiscono a Federmeccanica, con un totale di 1.600.000 addetti. Questo è il settore metalmeccanico in Italia, e 60.000 imprese. La produzione nel quarto trimestre è crollata del 13,4%, è il dato peggiore dal 1982. Quanto chiaramente a variazione, lo abbiamo detto parecchie volte, per capire questa crisi è forse più importante guardare il raffronto storico più che la singola cifra o percentuale. Quando tutti i raffronti saltano con 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, si capisce la profondità, se vogliamo anche storica, di questa crisi. Era dal 1982 che la variazione della produzione metalmeccanica in Italia non conosceva un calo così forte. E poi ovviamente purtroppo aumenta anche la cassa integrazione, più del 192% nell'industria metalmeccanica a gennaio del 2009 rispetto allo stesso mese del 2008. Tra l'altro il balzo vero e proprio è la cassa integrazione ordinaria, il 600% in più, mentre la cassa integrazione straordinaria è calata di un 10%. Di questo ha parlato il vicepresidente di Federmeccanica Luciano Miotto con la nostra Paola Nania. La situazione è nera, sinceramente gli spiragli ancora non ci sono. Si ha la chiara sensazione che anche il primo trimestre del 2009 porterà a ulteriori peggioramenti. Usciremo dalla crisi, perché questo è logico, è normale che questo succeda, ma non sarà così facile uscire. Questa crisi ha due caratteristiche: quella di essere pesante in tema proprio di profondità, così come lo è stata quella del 1975, ed ha soprattutto la caratteristica di essere lunga, così come lo erano state quella dell'82 e quella del 92, a differenza di quella del 75, che era stata profonda ma abbastanza veloce, si era chiusa in un anno. È una crisi profonda, lunga, particolarmente colpita il settore del lavoro. I dati della cassa integrazione si commentano da soli, di che cifre parliamo? Negli ultimi mesi c'è stato un pesante aumento della cassa integrazione e stiamo registrando anche oggi una costante richiesta di cassa integrazione per aziende, diciamo anche piccole, per aziende che sembravano non avere problemi particolari. Come giudicate le misure prese finora dal governo? Le misure prese sono positive, non sono sufficienti. Sicuramente aiutare l'automotive è un qualche cosa di positivo, anche perché va sottolineato che la ricaduta dell'automotive è su tantissimi altri settori, su tantissime attività. Aiutare l'automotive significa aiutare tutto il mondo metalmeccanico, l'indotto, produzioni elettriche, elettroniche. Dicevo però, questa non è un pacchetto sufficiente. E allora, questa è la situazione. Difficile oggi la puntata, comunque cerchiamo di tenere alto almeno il ritmo, se non il morale. Crisi lunga e pesante, la tempesta perfetta, l'ha chiamata qualcuno. In questa crisi ha un ruolo fondamentale in questo momento il settore auto, che è stato il primo a essere investito, soprattutto in America. Andrea Malan, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Se ho ben capito, Obama in Arizona annuncerà stanotte, domani forse in Italia, il piano per aiutare i proprietari di case vittime della crisi dei mutui, un pacchetto da altri 50 miliardi di dollari, ma soprattutto oggi scade il termine per la presentazione da parte di General Motors e Chrysler dei loro piani di ristrutturazione, dopo che hanno ottenuto 17 miliardi di cui 13 a General Motors e 9 gli altri a Chrysler. General Motors ne ha già incassati 10, e sempre oggi dovrebbe firmare Obama l'intero pacchetto di stimoli, di stimolo all'economia, approvato venerdì scorso dal Congresso, un piano da 787 miliardi di dollari. Due fronti, Andrea, il primo è quello americano. Da quello che si è capito, quali dovrebbero essere le caratteristiche di questa task force? Dopo le informazioni meteo, invece, anche tutte le mosse europee, perché General Motors controlla soprattutto Opel, c'è il rischio che possa fallire, potrebbero esserci alleanze europee. Andiamo con ordine. General Motors e Chrysler. È vero che secondo alcune indiscrezioni General Motors potrebbe presentare due piani, uno addirittura includerebbe la bancarotta, l'altro invece la richiesta di più fondi? Sì, diciamo che finora i vertici di General Motors sono stati molto drastici nell'escludere un'ipotesi di cosiddetto appunto fallimento pilotato, il cosiddetto Chapter 11 americano, che è una sorta di amministrazione controllata. La loro tesi è: un'azienda in amministrazione controllata non venderebbe più un'auto. In realtà può darsi che questo passo si renda necessario, almeno come ipotesi, per costringere tutte le parti con cui GM sta negoziando, e cioè i sindacati, gli obbligazionisti e le altre parti che hanno rapporti economici, ad accettare delle concessioni in termini di minori salari, minori benefit, conversione di obbligazioni in azioni, eccetera, che permetterebbero complessivamente a GM di superare questa crisi e di raggiungere quella che Washington pretende sia una sostenibilità di lungo periodo, cioè quello che il governo americano e il Congresso vogliono è evitare di appunto dare questi 13 miliardi e 4 che ha avuto GM più altri che probabilmente chiederà questa sera, e vederli poi andare in fumo nel corso di 6 mesi o di un anno. Quindi l'obiettivo dei piani che presenteranno oggi sia GM che Chrysler è cercare di dimostrare che con tutti i tagli che otteniamo dalle varie parti, che siamo disposti a fare anche noi stessi, dovremmo riuscire a rimanere in vita, diciamo, nel medio-lungo periodo. E quindi l'obiettivo è non dare i soldi a un settore che poi non è in grado di riprendersi, perché sarebbero chiaramente buttati via. Tra l'altro anche Chrysler dovrebbe avere due piani, se ho ben capito, è vero, un piano potrebbe includere alleanze, partnership con altre case automobilistiche, ma sicuramente il primo piano includerebbe la Fiat e poi un netto ridimensionamento delle varie partecipazioni sia di Cerberus che di Daimler, ho capito bene? Diciamo che soprattutto una delle due versioni del piano, anche se qui non è ancora incerto, comprenderebbe comunque l'alleanza il cui contratto di massima è stato firmato con la Fiat. Il punto qui è che non si sa quanto il Congresso sarà disposto ad accettare di finanziare un piano che poi porterebbe la Fiat ad avere una quota che va dal 35 anche alla maggioranza di Chrysler in caso di successo. Quindi è probabile che o Chrysler appunto formuli il piano in modo diverso, oppure appunto, come hai detto tu, presenti una seconda versione del piano che dica: ok, noi andiamo senza la Fiat, cerchiamo di farcela da soli, e poi dopo eventualmente, una volta che abbiamo dimostrato che i soldi ottenuti dal governo possono essere fatti fruttare, faremo alleanze con qualcun altro, con Fiat o con qualcun altro. È chiaro che Chrysler nel lungo periodo, così com'è, difficilmente può sopravvivere da sola. Intanto vi do un aggiornamento: General Motors sta crollando del 9% a New York in borsa, e Chrysler dell'8% quasi, per cui giornata molto molto pesante. E va bene, andiamo avanti così, il meteo, la pubblicità, e poi Andrea ci dovrà raccontare le contromisure o i piani di salvataggio che si stanno delineando, ipotizzando in Europa, visto che appunto non solo General Motors controlla la Opel e la Vauxhall, alcuni di voi hanno giustamente ricordato, ma le stesse industrie europee sono in grande difficoltà, e insomma si parla di possibili joint venture Fiat Peugeot, BMW Fiat, BMW Daimler. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in questa ennesima, ahimè, giornata di passione. Hanno chiuso sui minimi le borse, Milano meno 4%, quasi il 3,93 sull'S&P MIB, meno 3,3 sul MIBTEL, Francoforte meno 3,5, Parigi tra le migliori, si fa per dire, perde solo il 3%, l'America perde il 3,3, Londra ha perso il 2,5. Giustamente chiedete dell'euro, e l'euro è debolissimo, è 1,25 sul dollaro, e così come è sceso 88 sul PENS. Ma torniamo da Andrea Malan e dal settore auto. Al di là del piano americano, ti chiederei per un tanto una risposta su General Motors dopo gli obbligazionisti. Quali sono le ipotesi allo studio tra i colossi dell'auto europei? Se preliminarmente mi dici che cosa rischia chi ha obbligazioni General Motors, perché lo chiedono molti ascoltatori. Beh, dunque, per quanto riguarda gli obbligazionisti, sinteticamente dovrebbe esserci per lo più una conversione di bond in azioni, però non è detto che l'offerta che verrà effettuata dalla GM valga anche per gli obbligazionisti europei. Questa è una cosa di cui si è discusso nelle scorse settimane e di cui abbiamo scritto anche sul giornale, però appunto la versione definitiva si avrà solo che dopo che il piano sarà stato presentato e sarà anche stato approvato dal governo. Per quanto riguarda invece il settore auto in Europa, hai citato prima la Opel, che è una filiale al 100% di General Motors, è una filiale importante perché è quella che copre tutto il mercato europeo e le cui auto sono anche esportate per esempio in Sud America e in altri paesi. GM non ha nessuna intenzione di separarsene, ma è chiaro che soprattutto in Germania, dove ci sono parecchi stabilimenti, sono preoccupati perché il fatto che la Opel possa essere travolta da un eventuale crollo della casa madre americana. Il governo tedesco ha promesso un sostegno alla Opel, però così come il governo americano vuole essere sicuro che i soldi vengano impegnati per salvare e per rilanciare la Opel e non trasferiti negli Stati Uniti. Quindi è possibile, diciamo, che si arrivi a una separazione tra General Motors e la stessa Opel, o nel caso in cui le condizioni finanziarie di GM siano così gravi da imporre appunto una cessione di Opel, oppure nel caso in cui ciascun governo, quello americano e quello tedesco, siano disposti a dare dei finanziamenti solo nel caso in cui ci sia una separazione netta e non sia possibile gestire la cosa altrimenti. Allora, tu giustamente ricordavi, sarebbe grave, però attenzione, c'è il rischio che gli europei che hanno comprato obbligazioni General Motors possano essere trattati diversamente dagli americani. Detto questo, abbiamo letto oggi, per esempio, sul Financial Times Deutschland che il governo tedesco starebbe studiando la possibilità addirittura di entrare nel capitale della Opel, cioè se va a nazionalizzare anche la Opel oltre che le banche. La Opel dà lavoro a 26.000 persone in Germania, produce in vari stabilimenti, Assia, Turingia, Nordrhein, Westfalia, nella Renania, Palatinato. E nel frattempo, stanotte, mezzanotte, scade il termine che ha la Francia, il tempo che ha la Francia per fornire spiegazioni all'Europa sul proprio piano di aiuti all'industria dell'auto, che molto scalpore ha fatto perché era palesemente protezionista, diciamola tutta, visto che diceva potreste avere gli aiuti solo se utilizzerete fornitori francesi, poi il governo francese ha fatto retromarcia, ma insomma. Nel frattempo Bruxelles ha scritto un'altra lettera oggi al governo spagnolo per chiedere chiarimenti anche sul piano spagnolo di salvataggio dell'auto, che se non ricordo male vale 6 miliardi, ma vado a memoria, potrei sbagliarmi. Al di là dei piani dei vari paesi, Andrea, che ipotesi sono possibili? Perché insomma è chiaro che se continua così, qualche consolidamento, come si dice in gergo, noi traduciamo in fusione tra soggetti, potrebbe arrivare. Io adesso ti faccio dei nomi, tu mi dici cosa c'è eventualmente in ballo. BMW, Daimler, Chrysler. Beh, diciamo che dunque io farei un'osservazione più generale, partendo da quello che hai detto tu prima sugli aiuti. Una cosa è chiara, oramai tutti i governi in un modo o nell'altro sostengono i rispettivi settori auto e quindi è estremamente probabile che se, come molto probabile, un consolidamento delle fusioni, degli accordi ci saranno gestiti o pilotati dai governi. Questa è la prima premessa. I francesi, come hai detto, si sono mossi molto rapidamente e hanno sostenuto sia Renault che Peugeot con 3 miliardi di euro a testa, più 1 miliardo per le rispettive banche, che sono dovrebbero essere sufficienti a tenerle in piedi almeno per quest'anno e comunque erano necessari, vista la condizione di tutti i gruppi automobilistici a fine 2008. Non è un caso che la Fiat, per esempio, non avendo ricevuto aiuti diretti dal governo, sta ancora negoziando 1 miliardo di linee di credito con le banche, e si sono diffuse oggi voci di un aumento di capitale da 2 miliardi, smentite da Torino, ma voci che trovano il loro fondamento nel fatto che la situazione finanziaria, essendo più o meno simile per tutti, comunque è probabile che il miliardo di cui si parla come nuova linea di credito bancaria non sia sufficiente, e quindi prima o poi in qualche modo la Fiat debba procurarsi i mezzi in altro modo. E infatti oggi c'erano indiscrezioni anche su questo. La Fiat ha smentito l'agenzia Bloomberg, che diceva probabilmente dovrà fare un aumento di capitale da 2 miliardi. La Fiat ha smentito che vi sia allo studio un'ipotesi di aumento del capitale. Comunque iniziamo con questa specie di così risico. Va bene. BMW Daimler è un accordo che può essere solamente nei componenti e nelle parti non visibili, altrimenti se ci fosse una fusione di due marchi così prestigiosi e così noti e così concorrenti l'uno con l'altro, non avrebbe nessun senso dal punto di vista del business. BMW Fiat, e io qui la unisco a BMW Peugeot come alternativa, sarebbe un'operazione ottima dal punto di vista della complementarità. Non richiederebbe grandi tagli industriali, perché BMW fa solo auto di alta gamma oltre alla Mini, e Fiat o Peugeot dall'altra parte fanno auto per lo più medio piccole, poco inquinanti eccetera. Sarebbe vantaggiosa per entrambi, bisogna vedere appunto come andrà, come si orienterà la BMW da un lato, come peserà, come ho detto prima, anche l'intervento dei rispettivi governi, perché come detto indubbiamente avrà un ruolo. Sì, anche se appunto BMW Fiat è alternativa, se ho ben capito, a BMW Peugeot, chiaramente delle due possiamo parlare. L'altra ipotesi invece, Fiat-Peugeot. Fiat-Peugeot avrebbe un grossissimo problema. Diciamo che ha dei vantaggi, nel senso che le due famiglie si conoscono bene. Fiat e Peugeot, non dimentichiamolo, lavorano insieme da anni su ben 3 progetti: i monovolume, i piccoli veicoli commerciali, i medi veicoli commerciali. Il problema è che una unione tra due gruppi con 3 marchi, cioè Fiat, Citroën e Peugeot, praticamente identici e sovrapposti, avrebbe un senso industriale solo con dei fortissimi tagli alle gambe di prodotto e tagli anche agli stabilimenti. Quindi è un'operazione che probabilmente sarebbe molto difficile da accettare dal punto di vista sociale e politico in entrambi i paesi. Allora, Fiat General Motors. Forse pensavi a Fiat Chrysler. Fiat. Fiat General Motors, diciamo che c'è ancora qualcosa, ma oramai... No, poca roba. Fiat Chrysler ovviamente sarebbe un'ottima operazione, e sarebbe un modo intelligente per Fiat per far fruttare delle attività, degli asset, cioè i motori, le tecnologie che ha già. Il problema di un eventuale Fiat Chrysler è, da entrambi i lati dell'Atlantico, chi mette i soldi. Quindi se gli americani sono disposti a finanziare un rilancio di Chrysler anche basato su tecnologie Fiat, e come Fiat riuscirà nei prossimi mesi a finanziare i propri piani di sviluppo. Insomma, le abbiamo fatte quasi tutte le ipotesi, per cui insomma vedremo, qualcosa sicuramente si muoverà. Hai fatto bene a ricordare come in alcuni casi sì, siano ipotesi che avrebbero un grosso vantaggio, penso a Fiat, Peugeot, Citroën, dal punto di vista delle fasce, delle gambe, però porterebbero dei tagli, riduzione, sovrapposizione, per cui non penso che i governi dei vari paesi potrebbero accettare una cosa del genere. Staremo comunque a vedere. Grazie ad Andrea Malan. Di nuovo in diretta, quindi, al di là del settore auto, e quindi la Fiat, come tutto il comparto in Europa, la Fiat oggi ha pagato anche l'ipotesi, nonostante la smentita, di un aumento di capitale, e per dirla tutta, meno 6,7% è il calo complessivo del lingotto oggi, che porta il titolo a 4 euro secchi per azione. Le vicende di borsa oggi si chiamano banche. Allora, ne parleremo nella seconda ora del programma, per cui diamo le variazioni percentuali, ma se possibile concentriamoci anche su altri casi. Alleanza meno 8,22%, scende a 4,99 per azione. Intesa San Paolo meno 7,6%, scende a 2,09 per azione. Unicredito, per non farsi mancare nulla, perde un altro 7,35,3% e scende a 1,12 euro per azione. Io faccio notare che Unicredito Intesa, Unicredito valeva 6-7 euro un anno fa. Questo per dare il senso delle proporzioni. Comunque, UbiBanca meno 6,91, Tenaris meno 6,80, Unipol meno 5,80, Pirelli meno 5,7, Mondadori meno 5,6, L'Espresso meno 5% come Buzzi Unicem, Seat Pagine Gialle e Geox, Prismian e Generali perdono il 4,80%, Autogrill il 4,5% come Finmeccanica e Bulgari e Luxottica. Infine il 4% lo cede Impregilo, il 3,60% Saipem, il 3,5% Mediaset, il 3% è il calo di Eni, il 2,90%. Quello di Italcementi. Chi ha guadagnato oggi? A2A più 1,7, Snam Retegas più 0,6. Chi ha perso poco? Mediobanca, Enel, Eterna, che hanno perso meno di mezzo punto percentuale. Anche il Banco Popolare ha perso solo lo 0,6%, così come il Monte dei Paschi con un calo dell'1,7% e Telecom dell'1,8%, non hanno perso tantissimo. La Popolare di Milano ha perso il 2,6%, Fondiaria il 2,7%. Livia Zancaner, rincuoraci tu, Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. È dura, oggi. Allora, di Fiat abbiamo appena parlato, di banche intese come Unicredito, Intesa San Paolo e Alleanza parleremo nella seconda ora del programma. Partiamo da Finmeccanica, che oggi ha rischiato di perdere più del 10%, cioè è arrivata molto vicina, ha poi chiuso in calo del 4,5%, la commessa per gli aerei della Casa Bianca, di cui molto abbiamo parlato, 11 miliardi e passa di valore per 28 Augusta Westland modello US 101, ogni elicottero costa quasi 400 milioni, costo raddoppiato, com'è lo stato dell'arte? Sì, allora, Finmeccanica questa mattina all'avvio delle contrattazioni aveva è arrivata a perdere fino al 9,5%, quindi toccando un minimo a 10,75 euro, per finire anche sospesa, cioè in asta di volatilità. E appunto a penalizzare il titolo sono stati i timori relativi appunto al mancato rinnovo della flotta di elicotteri per la Casa Bianca. Questo appalto infatti era stato dato 6 anni fa, un'accordata anglo-italiana a cui partecipa anche Augusta Westland, che è la società di Finmeccanica. Però il presidente americano Barack Obama dovrà decidere se rinnovare o meno queste commesse, appunto perché i costi sono saliti e sono passati questi timori appunto a far scivolare il titolo, che però poi alla fine ha chiuso con un meno 4,46%, quindi limitando le perdite sul finale. Limitando, ma insomma non annullando, perché il 5% non è male per Finmeccanica, che scende a 11,35 euro per azione. A2A positiva, almeno un titolo positivo, daccelo, perché sennò veramente oggi è da 2 di novembre. A2A. Sì, A2A ha guadagnato un 1,7%. Allora, ieri la società ha confermato le linee guida del piano industriale che era stato varato nel 2008 e ha detto di prevedere per il prossimo quinquennio, quindi 2009-2013, investimenti per 2,8 miliardi di euro e dividendi non inferiori a 1,5 miliardi, il che significa 300 milioni all'anno. Inoltre oggi Giuliano Zuccoli, che è presidente del Consiglio di gestione di A2A, ha confermato, parlando di impegno morale, il mantenimento di una politica di dividendi impostata su una crescita del 5% medio anno, e quindi questa conferma delle cedole in un momento in cui la maggior parte delle società le taglia o le azzera è bastata per premiare il titolo e a farlo chiudere in territorio positivo. Pirelli, qui invece andiamo sulla parte di nuovo negativa. Pirelli meno 5,80% oggi in borsa, quindi nettamente peggio della media. Alla fine l'S&P MIB ha chiuso con un calo del 3,90%, e non è solo Pirelli, perché anche Pirelli Real Estate ha conosciuto un'altra giornata pesante. Comunque, Pirelli in primo luogo. Sì, allora, le vendite hanno iniziato a colpire in maniera particolare Pirelli e la controllata Pirelli Real Estate dalla presentazione del piano industriale l'11 febbraio. data da cui Pirelli Real Estate ha ceduto il 29,6% circa e Pirelli l'11,4%. Allora, a pesare sui due titoli sono in particolare il mancato pagamento del dividendo sull'esercizio 2008, soprattutto per Pirelli, e per quanto riguarda Pirelli Real Estate anche il progetto di ristrutturazione dell'attività immobiliare. Infatti il gruppo ha annunciato un aumento di capitale fino a 400 milioni di euro e una profonda riorganizzazione della struttura organizzativa. Pirelli inoltre ha previsto per il 2009 ricavi in calo del 6-7% con un recupero della marginalità però operativa al 6,5-7% dei ricavi. Oggi però bisogna sottolineare che a Pirelli ha risentito anche del calo del comparto auto, con Michelin in forte calo a Parigi e Continental a Francoforte. Allora Livia, tra l'altro ricordo che oltre a Fiat anche le controllanti IFI Privilegio e IFIL hanno perso i FIL il 7,5% e le Privilegio l'8,36%. Ricordo che su Tiscali ci chiedono giustamente anche gli ascoltatori se pesi la sconfitta di Soru in Sardegna. Il titolo ha perso 7,81% in una battuta. Sì, oggi dalle sale operative indicavano tra i vari problemi per la società, che abbiamo visto che comunque è scivolata per varie sedute anche nelle settimane passate, comunque oggi indicavano come uno dei fattori anche quello. Allora andiamo avanti invece con gli altri titoli, perché di Generali Alleanze, lo dico a chi ci scrive, così come di Intesa, di Unicredito parleremo tra un attimo, sia dopo GR. Italcementi, dopo l'annuncio ieri sospesa in borsa, poi l'annuncio della fusione con Semain Français, il titolo non è che abbia perso tantissimo. No, il titolo infatti è riuscito a limitare le perdite a meno 2,9%. E allora in realtà le azioni avevano iniziato le contrattazioni in calo del 2% per poi rimbalzare fino a guadagnare il 3% in mattinata. Allora oggi, ieri sera il gruppo ha comunicato la semplificazione della struttura societaria, mentre oggi l'amministratore delegato Carlo Pesenti ha confermato la politica dei dividendi anche dopo la fusione, compatibilmente ovviamente con le condizioni di mercato, mentre l'agenzia di rating Standard & Poor's ha reso noto di aver confermato i rating sul lungo termine e sul breve rispettivamente a BBB e a -3, quindi questo ha probabilmente riuscito a limitare le perdite sul titolo. E quindi non ha chiuso comunque sotto sopra l'andamento della borsa dei Italcementi. Minuti, seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni, e come promesso, poteva sembrare quasi una minaccia, ci occupiamo adesso di banche, Alleanza, Intesa, Unicredit, UbiBanca, tutti con cali del 7-8% oggi. Prima però, come sempre, per chi si fosse appena messo in collegamento, le altre notizie di questa giornata. Mentre si attende la firma di Obama al piano di salvataggio, un piano di stimolo come viene chiamato dell'economia americana, 780 miliardi, si attendono è oggi il giorno in cui General Motors e Chrysler devono depositare i piani che per ottenere e per rassicurare poi il governo americano, che ha già stanziato 14 miliardi di dollari, ne abbiamo parlato in apertura. Nel frattempo, come ricordava anche il nostro GR, la previsione dell'Europa, 3 milioni e mezzo di posti di lavoro a rischio in Europa, era una previsione da gufo, ma il gufo l'abbiamo già usato. In Gran Bretagna l'inflazione è scesa al 3%, per quello che riguarda il prezzo del petrolio siamo a livelli bassissimi, anche oggi il petrolio è sceso ulteriormente a $34,68 al barile, mentre per quello che riguarda l'Euribor a tre mesi è sceso ulteriormente all'1,91%. Preoccupato per la crisi il presidente, penso che non sia l'unico, della Commissione europea, Manuel Barroso, il quale ha detto occorre resistere alle sirene del protezionismo in Europa. Di protezionismo ha parlato anche il presidente del Consiglio Berlusconi, che ha detto attenzione, da questa crisi si può uscire con la collaborazione di tutti senza mai cadere nella trappola del protezionismo. E di crisi ha parlato anche il vicepresidente Confindustria Bombassei, a margine di un'audizione in Commissione Lavoro della Camera. Bombassei, che ricordo è anche proprietario della Brembo, ha ricordato come la crisi economica si stia allargando a macchia d'olio dal settore automobilistico a quello della meccanica fino al tessile. Francamente credo che la situazione sia quella che conosciamo tutti e quindi debbano essere prese delle misure eccezionali. Credo che la ricerca di quello che sta facendo il governo sia a livello di credito sia a livello di aiuti ai settori più colpiti vada nella direzione giusta. Adesso si tratta soltanto di vedere con quale entità possiamo affrontarlo. Questo è il primo commento. La seconda cosa, credo che nel confronto che è stato fatto nel G7 dell'ultimo weekend e il confronto fra paesi europei sia un altro dei passi obbligatori, perché dovremmo prendere delle misure il più possibile simili fra un paese e l'altro per non creare delle asimmetrie e quindi per non alimentare quelli che sono gli interessi nazionali, e quindi vuol dire fare del protezionismo, che è la strada opposta a quello di cui abbiamo bisogno. E quindi io spero che questi elementi più tutte le misure prese riescano a invertire un po' la tendenza. Quindi mi auguro che la gente possa riprendere un po' più di fiducia e quindi ricominci a consumare, se non come prima, ma quantomeno attenui questo effetto negativo. E sempre il vicepresidente di Confindustria Bombassei, che anche la delega alle relazioni industriali, ha detto: per reperire le risorse necessarie ad allargare gli ammortizzatori sociali sarebbe necessario prendere in mano in maniera coraggiosa, anche se la scelta può apparire impopolare, la riforma delle pensioni. Ritengo che sia giusto che categorie di lavoratori che oggi non sono coperti da questi ammortizzatori siano inclusi. C'è però un dato altrettanto importante che dobbiamo dire, è come reperire le risorse. Anche questo era un elemento e un argomento che si era detto, e però capisco che è uno dei tanti argomenti impopolari per cui nessuno nel passato, o perlomeno qualcuno che l'ha preso in considerazione e che ne ha avuto un po' più il coraggio, magari, che è un argomento impopolare, che è quello delle pensioni. Perché noi sulla spesa sociale, come Stato, spendiamo più o meno quello che spendono tutte le altre nazioni, intorno dal 25 al 27% del prodotto interno lordo. L'unica differenza è che noi lo spendiamo al 60%, al 50% per le pensioni, mentre gli altri Stati ne spendono soltanto il 40% o qualcosa meno, mentre invece su tutte le altre spese sociali, sul lavoro femminile, sull'avviamento al lavoro, sugli ammortizzatori sociali, siamo sbilanciati in un altro senso. Allora, perché non prendere mano in maniera veramente coraggiosa di nuovo il discorso delle pensioni e avvicinarci agli standard europei con un'età pensionabile che sia quello che hanno usato tutti? Così vicepresidente Confindustria Bombassei in audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Federmeccanica, ne abbiamo parlato nella prima ora del programma. Intanto oggi nell'indagine congiunturale fa notare come la produzione del quarto trimestre sia crollata del 13,4% per il settore metalmeccanico, che significa in Italia 60.000 imprese e 1.600.000 lavoratori. E tra l'altro il meno 13,4% rispetto a un anno prima è il calo più forte dal 1982. E poi già da gennaio il boom della cassa integrazione, più 192%, soprattutto l'ordinaria. La cassa integrazione ordinaria nel settore metalmeccanico è schizzata, ha fatto un più 600%, cioè è aumentata di 5 volte. E la cassa integrazione straordinaria invece è diminuita del 10%. Alcuni di voi scrivono: non capisco la sua depressione di oggi, sta solo scoppiando la più globale delle bolle speculative, finalmente, chissà se vivremo a prezzi più bassi. Sì, chi vivrà a prezzi più bassi, il problema è capire come ci arriviamo a questi prezzi più bassi. Comunque vi tranquillizzo, non sono depresso, è semplicemente la trentesima, quarantesima seduta in cui tutto va giù e in cui ci sentiamo dire che le banche forse non hanno tirato fuori ancora tutti i prodotti tossici che hanno in pancia. Alcuni di voi scrivono, ma forse non lo fanno perché scatenerebbero il panico. Sì, per carità, anche continuare con questo stilicidio quotidiano di indiscrezioni, di ipotesi, di svalutazioni, di rating che si abbassano non mi sembra così salutare. Forse bisognerebbe anche cercare di ritornare a uno stadio zero di ripartenza, perché non so quanto si potrà andare avanti a questi livelli. Unicredit oggi quota 1,1 euro per azione. Di nuovo in diretta per l'ultima parte del programma e per parlare di banche devo aver detto una castroneria, ogni tanto capita, chiaramente il 600% in più della cassa integrazione è 7 volte in più, invece c'è chi scrive ancora un mese e poi i mercati ripartiranno piano piano. Ci dica dove abita, così veniamo a investire in borsa da lei, perché qua situazioni del genere non ne vediamo, ma comunque ci mancherebbe, accogliamo con piacere anche messaggi di cauto ottimismo. Quello che è successo oggi invece è un film diverso, quello che abbiamo visto oggi in borsa è un film diverso, meno 4% quasi l'S&P MIB, meno 3,3% MIBTEL, meno 3,4% Francoforte, meno 3% Parigi, meno 2,5% Londra, meno 3,4% in questo momento il Dow Jones, meno 4% lo Standard & Poor's, meno 3,7% il Nasdaq. E soprattutto in Italia particolarmente penalizzate Alleanza meno 8,22, Intesa meno 7,60, Unicredit meno 7,35, UbiBanca meno 6,91%. Con noi Walter Riolfi del Sole 24 Ore, buonasera Walter. Buonasera. Un attimo di controllo forse sul volume del microfono. Allora, ieri notte praticamente Moody's, una delle tre agenzie di rating al mondo, ha detto il rapido deterioramento del quadro macroeconomico nell'Europa dell'Est potrebbe mettere sotto pressione i rating di diverse banche dell'area. E quindi, secondo Moody's, le banche dell'Europa dell'Est potrebbero essere messe sotto pressione a causa della svalutazione delle valute locali, dell'ampio peso che hanno i finanziamenti esteri dell'Est Europa, e l'esposizione a settori in declino a livello regionale, ad esempio il comparto immobiliare. E poi c'è il rischio addirittura di un disimpegno delle controllanti occidentali. Per quello che riguarda l'Italia, noi abbiamo il 27% di tutte le esposizioni in Polonia fanno capo all'Italia e in Croazia il 16%. Le due banche nominate espressamente da Moody's sono ovviamente Unicredit, che è molto forte in Austria, in Germania, ma anche nel resto dell'Est Europa e in Polonia, e Banca Intesa. Poi, Walter, è arrivata anche Standard & Poor's. Ecco, non si tratta tanto di essere ottimisti o pessimisti, no? Qui si tratta semplicemente di essere realisti. Non so se le borse ripartiranno fra un mese, non so se scenderanno ulteriormente. La situazione comunque si sta aggravando, anzi sta aggravando in maniera particolare, si sta avvitando come una spirale all'ingiù. Per esempio, negli ultimi 3-4 giorni si parla meno di titoli tossici che sono in gran parte in mano alle banche americane o inglesi, e si parla di questo relativamente nuovo pericolo che è rappresentato dal degrado finanziario dell'Est Europa, sia negli stati sia nelle società dell'Est Europa, cosa del resto che il Sole 24 Ore ha descritto abbastanza bene in un pezzo ancora di 15 giorni fa. E Moody's ha avvertito che declasserà il debito delle banche dell'est europeo, e la stessa cosa ha detto Standard & Poor's oggi, dicendo che farà altrettanto. Cosa succede? Le banche dell'est e tutto l'est Europa è vissuto grazie ai finanziamenti del lucrosi al tempo dell'Europa occidentale. Qui ci sono 4-5 banche europee largamente esposte nei paesi dell'est, l'italiano Unicredit e anche in minor parte Intesa, poi c'è anche Sogen e altre due banche austriache e banche tedesche, totale circa 5-6 istituti, i quali oggi tra l'altro hanno perso tutti tra il 7 e il 10%. È ovvio che l'Europa dell'Est, già messa a dura prova da questa crisi, se si vedesse tagliare ulteriormente i cordoni del credito, è ovvio che la crisi nell'Est si accentuerebbe, quindi anche questa è una spirale ancora, ancora più forte. Allora Walter, ti faccio una domanda che forse è stupida, anzi, ma chiedo scusa in anticipo, ma c'è un livello minimo, a parte che esistono anche i tier, ossia dei livelli di capitalizzazione, per dirlo in maniera un po' semplice, che le banche sono obbligate a rispettare? Da lì abbiamo visto per esempio l'aumento di capitale in Unicredito, cioè quando scendi sotto un certo livello di capitalizzazione sei obbligato, dalla Banca d'Italia te lo chiede, in quanto tu banca gestisci i depositi e hai depositi di milioni di persone, ad aumentare la tua capitalizzazione. Ma c'è un livello sotto il quale è difficile che scendano i titoli? Te lo chiedo perché sappiamo tutti quello che è successo nell'ultimo anno, per carità, però ancora a giugno del 2008, quindi con una crisi già annunciata, non ancora virulenta, ma insomma con timori forti, con il settore bancario che già aveva perso indicativamente un 15-20%, Intesa quotava quasi 5 euro per azione. Oggi siamo a poco più di 2 euro per azione, 2,27 euro per azione. Per non parlare poi del caso Unicredit, perché se prendiamo lo stesso tipo di raffronto, anche lì Unicredit valeva 5 euro per azione, quasi, qua siamo scesi a 1,2 euro. La domanda la pongono in maniera anche più corretta gli ascoltatori, cioè, c'è un livello in cui la borsa dice basta, a questo punto quoti sotto i mezzi propri, come si chiamano in gergo, non ha più senso continuare a vendere, oppure cali del 7, 6, 5%, ormai ci stiamo facendo l'abitudine, ma dovremmo continuare a farla? Qui è toccato il punto, secondo me, fondamentale, perché se non ci sono motivi per essere ottimisti, anzi qui c'è un realismo vedendo i dati, l'altro motivo per essere moderatamente invece ottimisti è proprio dove possono scendere le valutazioni delle banche. Allora, io ho fatto un calcolo. Dai massimi del 2007 l'indice bancario americano ha perso circa l'84% e quasi l'80% l'indice delle banche europee. Allora, cioè mediamente valevano 100 ai massimi. 100 ai massimi, adesso, e adesso valgono 17 le americane e 20 l'europeo, no? Quindi sono divise per 5 mediamente le quotazioni. Se prendiamo Unicredit, addirittura ha perso oltre l'85%. Allora facciamo il caso Unicredit. Unicredit sicuramente ha i problemi nell'est Europa. Alcuni analisti stimano che il 2009 potrebbe chiudersi in perdita, proprio con le perdite dell'est Europa. Questo non è il consenso, è la stima di alcuni analisti particolarmente aggressivi, però può darsi che abbiano ragione. Allora immaginiamo che comunque perda Unicredit. Unicredit capitalizza un quarto dei mezzi propri, cioè 25% dei mezzi propri. Ecco, ricordiamo cosa sono i mezzi propri, è il patrimonio della banca. Anche se dovesse perdere 2 miliardi, forse la banca avrà bisogno di qualche piccola ricapitalizzazione, oppure basterebbe l'emissione di un bond, eccetera, per riportarla nei parametri. Ma Unicredit non è nella condizione di Barclays, Lloyds, certo, Royal Bank of Scotland, di Citigroup o di Bank of America. Queste qui sono tutte banche fallite. Mm-mm. E se stanno in piedi è solo perché è arrivato lo Stato che le, certo, ha salvate. Allora, che una banca non fallita, anzi con diciamo intatte le prospettive di continuare anche nel futuro, e tra l'altro con una buona posizione, abbia perso tanto quanto le banche fallite. Sì, è questo che è abbastanza inspiegabile. È una cosa abbastanza inspiegabile, e diciamo che comunque il mercato non va per il sottile quando ci sono queste crisi. Io capisco che non vada per il sottile, però mi sembra più un mercato dei buoi o delle vacche che un mercato di persone che qualcuno usano si accorgerà che c'è un fondo a questo, che tutte le cattive notizie, anzi le peggiori notizie immaginabili, sono già nei prezzi a 25%. Lo dice: o questa banca fallisce, benissimo, e allora scenderà ancora, no? Oppure avrà solo bisogno di qualche iniezione di liquidità che può trovare sul mercato, se una banca è fondamentalmente sana, no? Tra l'altro le banche italiane non hanno i titoli tossici. Anche perché volevo arrivare qui prima di concludere. Cioè, noi abbiamo detto l'Italia ha altri problemi, ha un debito fortissimo e un deficit da tenere sotto controllo, perché se no non riesce a trovare Tremonti finanziatori per 220 miliardi di obbligazioni in scadenza quest'anno. Quindi questi sono i nostri problemi. Ma noi come sistema bancario non siamo messi assolutamente male rispetto a quello che è successo in Germania e Gran Bretagna, e anche guardando la Francia. Cui quello che è inspiegabile, o voglio dire, il mercato scommette che Unicredit e Intesa abbiano prodotti tossici enormi a questo punto e continua a bastonare, se no non si capisce. Ma non è vero, sarebbe già uscito da qualche parte. Adesso va bene tutto. Unicredit qualcosa avrà, ma sono cose gestibili, non siamo ai livelli delle banche inglesi e americane. Io ho un'altra ipotesi. Quando c'è situazione di ribasso, ci sono investitori che hanno interesse a guadagnare, quindi guadagnano col ribasso, no? Seconda cosa, ci sono ancora dei ribassi forzati, perché le banche d'affari o le banche commerciali hanno ulteriormente chiuso i cordoni con gli hedge fund, soprattutto negli Stati Uniti, ma la cosa mi dicono anche a Londra. A Londra, dove ha sede gli hedge fund europei, no? E quindi mi pare che le vendite di una parte delle vendite di questo periodo siano proprio vendite forzate, dovute proprio alla chiusura delle linee di credito. Per cui un motivo anche diverso e tecnico. Certo è che alcuni di voi scrivono, a questo punto uno potrebbe scalare queste banche. Non è così facile scalare né Intesa né Unicredit. Certo che o veramente tutti sono messi così male, o se no qua scalare in Europa è solo un'altra banca che può scalare, esatto, questa, una banca. Quindi ognuno ha i propri problemi. Attenzione, perché le banche sono delle imprese particolari, non può essere lanciata un'offerta da, che ne so, Microsoft piuttosto che McDonald's. Deve essere un'altra banca a farla. Non è così facile, e soprattutto non vedo tutte queste banche messe benissimo. Avete ragione nel ricordare che anche UbiBank è andata particolarmente male oggi, meno 6,9% e Unipol meno 5,80%. Walter Ioffi, staremo a vedere, perché oggettivamente adesso diventa difficile sostenere che questi livelli di prezzo rappresentino il valore di queste banche, visto che siamo a un quarto dei mezzi propri. Ripeto, i mezzi propri, chi ce lo chiede, sono gli asset, gli immobili, gli investimenti che hai, quello che puoi rivendere e che comunque hai materialmente. Per cui vedremo se il mercato poi avrà un rimbalzo, come si muoverà. Per ora grazie al collega del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisone è veramente tutto. Vi lascio alla nostra programmazione, noi ci risentiamo domani. Un elemento positivo, oggi inizia Sanremo, sì, vabbè, mettiamola così, oggi inizia Sanremo. A domani dalle 17 in poi.